I vestiti dei matrimoni di Camille li ho già fatti fuori. Ma tutte le cose belle vanno via. Quelli sono rimaste ancora tre. Perché sai, avrei dovuto avere della roba più grande. Le cose belle vanno via subito. Quelle sono via subito, però. Ma sai, io ne ho tanta roba. Troppo piccola. Ma non le metto mai. Siamo già stati una settimana. E allora? È già troppo? Alors, la dame qui l'a dit. internet. Robin Desbois. Robin Desbois.